Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. La utility romana CEA Energia sta facendo da molto tempo a questa parte il pieno di segnalazioni e lamentele da parte dei consumatori. Si punta il dito verso la municipalizzata della capitale per presunte pratiche commerciali scorrette, cambi di tariffe e fatturazione di consumi presunti invece che effettivi e per ritardi ed irregolarità nell'invio delle bollette non pervenute anche per molti mesi. Alcune mail sono arrivate anche qui a Radio 24, vi leggo per esempio quella del signor Roberto, che per la verità non ha scritto a Salva Danaio, ha scritto ad Oscar Giannino che ce l'ha girata, ma io ve la leggo lo stesso. Vorrei chiedere se in passato vi siete già occupati della questione della CEA di Roma. Sono preoccupato perché da marzo 2012 fino ad oggi non sono più arrivate le bollette. Ho provato varie volte a contattare il call center della CEA senza esito, con vaghe risposte tipo stanno facendo i conti. Anche il sito della società non è aggiornato sui consumi e sembra che non funzioni. Ho provato varie volte anche ad inserire l'autolettura, ma da errore. Io sono un operaio di 48 anni, monoreddito, con moglie e due figli a carico e ho paura che da un momento all'altro arrivi una stangata di conguaglio e mi mandi per aria il bilancio familiare già disastrato. Navigando su internet pare che il problema sia molto comune. Grazie di tutto, buon lavoro Roberto. Sono molti i disagi riscontrati nel settore dell'energia, molti disagi che accomunano anche i consumatori di altre parti d'Italia, al punto che proprio ieri l'Antitrust, l'autorità garante del mercato, ha segnalato ufficialmente a Governo e Parlamento, il Governo sta predisponendo la relazione annuale sulla concorrenza, la necessità che le bollette siano stabilmente basate sui consumi reali e non su quelli presunti. Allora noi oggi a Salva Danaio torniamo a fare il punto su questi disservizi, dalla mancata puntualità agli errori nelle letture, alle mancate corrispondenze appunto con i consumi presunti, rispondendo in diretta alle vostre domande, se vorrete, ma più che altro raccontateci i casi in cui siete incappati all'800 24 00 24, e poi appunto, come vi ribadisco, li commenteremo insieme ai nostri ospiti che stamattina sono Ilaria Serpi, vice responsabile energia di Federconsumatori. Dottoressa Serpi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua, e così come salutiamo e ringraziamo Luigi Gabriele, responsabile settore energia di Codici, centro per i diritti del cittadino, che sta dando battaglia sulla questione di Acea, lo fa naturalmente anche Federconsumatori, da molti mesi, perché per la verità noi abbiamo segnalato il caso di Roberto che non riceve la bolletta da marzo, ma è una situazione che si protrae da oltre un anno, per cui io immagino che ci siano anche molti utenti che da tutto questo tempo non hanno e non stanno ricevendo bollette. Gabriele, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioconsumatori. Bellissima, Gabriele, questa me la voglio veramente, ci metto su un copyright e gliela rubo immediatamente, non si permetta di utilizzarla, ma gliela voglio rubare. Bellissima questa dei radioconsumatori, da oggi gli ascoltatori di Salva Danaio li chiameremo così. E allora, non ci distraiamo però dal tema di oggi, che invece immagino comincerà subito ad indispettire molti ascoltatori, che possono appunto segnalarci i loro casi al numero verde, come ho già detto, ma possono anche farlo al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete scriverci anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Su questo tema noi ieri abbiamo anche, come sempre, lo stiamo facendo da qualche giorno, predisposto un piccolo sondaggio sul nostro profilo Facebook, lo ha fatto come sempre il mio valente Marco Lombardo, e ha chiesto ai frequentatori del social network: bollette di luce e gas, mai avuto problemi con il vostro gestore? Qual è il più frequente? Al primo posto la bolletta che non arriva o arriva in ritardo, la cifra in bolletta che non corrisponde, non sembra corrispondere ai reali consumi, questi un po' i disagi più segnalati. Voglio ricordarvi un'ultima cosa, che da pochi giorni Marco Lombardo appunto ha vinto tutte le mie resistenze e siamo anche su Twitter, per cui potete trovare anche il nostro profilo appunto su quest'altro social network e quindi aiutarci a cinguettare le tematiche che preferite. Magari anche da lì potete segnalarci eventualmente temi di vostro interesse. Io voglio fare la borsa molto rapidamente, ho detto qualcosa di sbagliato Marco, poi me lo segnali. La borsa l'ho già detta nel giornale radio, oggi c'è un quadro contrastato in Europa, più 0,6% a Milano, meno 0,07% a Parigi, Francoforte più 0,22, Londra più 0,11, euro su dollaro a 1,29,22, spread sui 350 punti base. Giornata tranquilla, probabilmente si muoveranno un po' più le cose tra domani e dopodomani, quando arriverà la riunione della Banca Centrale Europea e venerdì il dato sulla disoccupazione americana. Nell'attesa anche che venga lo scoperto il governo spagnolo, che non abbiamo ben capito se ha intenzione nei prossimi giorni o di farlo più tardi, perché ormai sembra una questione certa, è solo questione di ore, che abbia appunto venga lo scoperto sulla questione della richiesta di aiuti alla comunità appunto europea, aiuti pubblici per appunto sostenere il bilancio pubblico molto precario, come sapete, quello spagnolo, oltre al fatto che le banche dovranno ricapitalizzarsi appunto a breve. Direi che però lasciamo subito la borsa e andiamo invece al tema di oggi, parliamo di bollette, di quelle che non arrivano e quando arrivano son dolori. Occorre che le bollette siano stabilmente basate sui consumi reali e non su quelli presunti. Scrive così l'antitrust, che in una dichiarazione di ieri ha preso una posizione netta rispetto ad una tematica che coinvolge e mette in difficoltà un numero sempre maggiore di cittadini italiani, che con i prezzi di gas e luce devono fare sempre maggiore attenzione. L'autorità ha segnalato il problema a governo e Parlamento, chiamati a prendere provvedimenti in materia, e nel frattempo tanti consumatori stanno segnalando i loro disagi alle associazioni e alla stampa, dopo essersi, non sempre con successo, ripetutamente rivolti ai call center dei propri gestori. Se la bolletta si basa su un consumo presunto e quindi non corrispondente alla lettura del contatore, il cliente rischia di trovarsi a pagare una cifra molto superiore rispetto al suo reale utilizzo del servizio. E i tempi e le modalità di conguaglio, con i rimborsi necessari per compensare la differenza, non sono sempre rapidi e chiari. E questo non è l'unico disservizio che i cittadini italiani lamentano. Spesso la temuta bolletta nemmeno arriva, la si aspetta per mesi senza sapere quanto potrà essere pesante quando verrà recapitata. È il caso dell'utility romana Acea Energia, che sta facendo letteralmente il pieno di segnalazioni e lamentele. Le pratiche commerciali scorrette, cambi di tariffe e fatturazione di consumi presunti invece che effettivi, così come ritardi e irregolarità, sembrano in ogni caso accomunare molte zone dello stivale. E ancora una volta le famiglie sono chiamate a stare in guardia, informarsi ed essere pronte a difendersi. Anche perché oltre a tutto questo non ci dimentichiamo che luce e gas stanno rincarando di nuovo da molti mesi a questa parte. Il 1 ottobre è arrivato un nuovo ritocco da parte dell'autorità per l'energia e c'è stato appunto un nuovo aumento della bolletta del gas e della luce rispettivamente, più 1,4% per la luce, più 1,1% per il gas, che abbiamo appunto messo insieme agli aumenti che ci sono stati già nei trimestri precedenti e che sono stati già molto salati, per cui già gli aumenti arrivano. Se la bolletta non la vediamo, se non riusciamo a pagare ogni bimestre, a stare almeno in regola con questo pagamento che è fisso, dal quale non ci possiamo sottrarre, possiamo risparmiare un po', ma chiaramente luce e gas le dobbiamo utilizzare in casa nostra. Se non possiamo tenerlo sotto controllo, voi potete capire in che disagio si trovano le famiglie. Volevo segnalare un'ultima cosa, perché il tema indispettisce gli ascoltatori, a me indispettisce un po' invece l'atteggiamento della società, che ieri abbiamo tentato di coinvolgere per intervenire nella nostra trasmissione. Non ho avuto una risposta molto soddisfacente, questo mi dispiace dirlo, da parte dell'ufficio stampa dell'azienda, che ha detto di non essere stato avvisato in tempo, non ha avuto modo di trovare un dirigente libero per fare due battute in diretta. Siamo disponibili, ci hanno detto, per future occasioni, ma dobbiamo avere noi la cortesia di anticipare la richiesta almeno 48 ore prima della messa in onda. Allora io mi dico, con una emergenza di questo tipo che dura da un anno, non abbiamo un dirigente preposto a gestire questa emergenza almeno 12 ore al giorno? Non ci sembra una risposta soddisfacente. Detto questo, ma questo è un problema mio probabilmente con questo ufficio stampa, Luigi Gabriele, da che cosa cominciamo? Ci aiuta a capire che cosa sta succedendo? Perché non arrivano queste bollette agli utenti di Acea di Roma? Intanto un suggerimento a voi, in caso di risposta insoddisfacente, come in questo caso da parte dell'azienda, potete inoltrare reclamo e chiedere indennizzo automatico. Sì, qui è, in realtà è una relazione tra colleghi, perché io dico, io non ho nessun motivo di dubitare del lavoro che sta facendo il collega che gestisce le relazioni con la stampa di questa società, ma se non gli dice al dirigente, guarda, è il caso che tu parli di questa cosa, mi sembra che non siamo in grado di fare bene il nostro lavoro. Comunque, detto questo, hanno avuto i suoi problemi, povero, non... Guardi, devo dire che è lo stesso problema che riscontriamo anche noi, e sebbene noi non siamo singoli consumatori ma associazioni, abbiamo lo stesso problema nel cercare di approfondire le questioni, le tematiche che stiamo sollevando ormai da troppi mesi, anzi direi in alcuni casi anzi da anni. E il problema è che lo scenario che avete descritto, e che comunque è concreto e reale, appare essere uno scenario tipico da 21-12-2012, da profezia Maya del comparto del settore energetico. E nel caso della situazione romana la situazione si aggrava ulteriormente, perché poi, come tutti sanno, soprattutto nel mercato tutelato, a farle da padrone comunque sono le aziende che poi sono presenti sul territorio. Sul territorio di Roma vi è la più grande ovviamente è l'azienda municipalizzata, che comunque detiene sia la parte della vendita che della distribuzione. Nel contesto del mercato tutelato, che ricopre ovviamente quasi il 90% delle forniture, si genera un problema in questa azienda, ovviamente va a colpire il 90% delle utenze romane. Quando noi l'anno scorso esattamente facemmo presente all'azienda che c'era questo problema legato alla fatturazione, che già derivava da mesi e mesi di segnalazioni da parte delle utenze che continuavano a sostenere che vi era il mancato rispetto della misurazione esatta della componente soprattutto energetica, abbiamo riscontrato una specie di muro di gomma, quasi a voler far capire che avevano problemi interni, ma dovevamo interessarcene poco perché questi problemi erano prettamente interni. Poi si scopre, facendo ovviamente il nostro lavoro di mystery shopping, che in una prima fase in effetti avevano effettuato un cambio di sistema informatizzato. Questo sistema informatizzato, che tra l'altro è un sistema in voga tra molte aziende, e tra tutte queste aziende hanno il medesimo problema legato alla fatturazione. Sì, infatti non le dico quanti SMS ci stanno arrivando. Devo dire che probabilmente questa puntata vince il premio del mese, già lo posso dire il 3 ottobre, senza timore di essere smentita alla fine del mese, sì. Però poi su questo si aggiungono anche una serie di questioni che sono prettamente di politiche interne, che noi ovviamente non vogliamo entrare nel merito, no, perché ognuno a casa sua. Nel Lazio hanno già i loro problemi, infatti, tra l'altro, da affrontare in queste ore, per cui non ci addentriamo anche in quello che però potrà succedere. Però quando si scopre nei giri delle poltrone. Si scopre che il meccanismo di fatturazione, che prima era internalizzato all'azienda, ovvero veniva gestito da personale proprio, in un certo momento viene completamente esternalizzato e dato a soggetti esterni. Sono scelte commerciali sicuramente, ma uno poi deve essere anche pronto a dover reagire all'eventuale malfunzionamento del meccanismo, che se tu esternalizzi un qualcosa che hai sempre avuto in casa, conoscendo le procedure, i meccanismi, avendo dei dipendenti consolidati sul sistema, certo, poi devi essere anche pronto nel momento in cui decidi di, per costi interni immagino, di esternalizzarlo, di far fronte alle problematiche. Quindi il tema è questo, Gabriele, che la Acea Energia ha esternalizzato il suo servizio di conteggio, di lettura dei consumi dei suoi utenti e quindi di conseguenza di fatturazione? Non solo, il problema è anche legato alla misura. Come tutti sanno, la parte della misurazione è di competenza del famoso distributore. Nei casi di queste grandi aziende, molto spesso il distributore, anche se a livello aziendale viene definito in un altro modo, comunque ha un'altra identificazione, quasi sempre corrisponde alla stessa azienda. Acea Distribuzione, Acea Energia sono due aziende diverse, ma comunque quasi sempre sono Acea, non sono gli stessi colleghi, immagino, ma comunque stanno nella stessa famiglia. Spesso con la scusa del famoso unbundling, della separazione tra i call center che ricevono le lamentele e quelle che invece propongono praticamente novità commerciali dell'azienda, c'è la... No, non è anche questo. No, si aggiunge il fatto che si dice che siccome che l'autorità ha imposto la separazione tra i soggetti distributori e i soggetti venditore, non possono più parlarsi tra di loro, sebbene stanno sullo stesso, nello stesso, magari nello stesso pianerottolo dell'edificio, nello esatto, stesso pianerottolo e così via. Questo ovviamente genera confusione, ma la confusione principale è perché è inconcepibile che un consumatore utente, nonostante sia dotato, ad esempio a Roma quasi tutti ormai hanno il famoso contatore teleletto, non si riescono nemmeno a far funzionare le cose che sono state introdotte proprio perché dovevano facilitare le procedure interne, soprattutto legate alla misura, alla stima e quindi a far pagare al consumatore il giusto e il dovuto. E di queste considerazioni che abbiamo fatto ovviamente danno il risultato che è quello del consumatore che non riceve. E infatti ci sta, diciamo, che questi problemi ci possano essere, però li risolvi in 2 mesi, un anno abbondante. Quando sono arrivate le prime segnalazioni sul fatto che cominciavano a non arrivare le bollette, per esempio, a parte poi tutta la rosa di disservizi che è abbastanza ampia, ma il mancato arrivo delle bollette, Gabriele? Guardi, posso dire con certezza che noi la prima segnalazione all'autorità dell'energia l'abbiamo fatta a marzo 2011, quindi oltre... Ah, però, un anno e mezzo, quindi. Sì, già, un anno e mezzo. Sì, ma infatti poi noi ieri indagando abbiamo visto che articoli di giornali, soprattutto sulla stampa romana, ne sono stati appunto pubblicati tantissimi da tanti mesi a questa parte. Noi ci dobbiamo fermare, abbiamo cercato di capire che cosa è successo all'interno dell'azienda, tale per cui si stanno creando questi disservizi a domino sulla platea appunto degli utenti dei servizi di gas ed energia, appunto di Acera Utility Romana. Adesso il tema è capire intanto quando si sbloccherà la situazione, non lo sappiamo perché l'azienda non è, probabilmente non ne ha la più pallida idea, ma soprattutto come possono tutelarsi gli utenti che, oltre al fatto che si vedono arrivare bollette dopo mesi di non arrivo, per cui chiaramente importi salatissimi, il tema è che per la verità questi importi si aggiungono anche ulteriori addebiti di consumi presunti, per cui amplificano ulteriormente il peso di questi costi nel bilancio familiare, per cui tutta una serie di problematiche che si stanno allargando a macchia d'olio. Appena ritorniamo in diretta sento naturalmente Ilaria Serpi, le chiedo ancora gentilmente qualche istante di pazienza, poi cominceremo anche a sentire gli ascoltatori. Abbiamo Francesca da Ostia, quindi ritorneremo subito sul caso di Roma, ma ci faremo raccontare anche da altri ascoltatori altre testimonianze di altri utility sul territorio che più o meno vedo che hanno la cattiva medesima abitudine. Eccoci ritrovati in diretta a Salvadanai. Oggi affrontiamo il ginepraio delle bollette di luce e gas, partendo dal caso della CEA di Roma che da mesi non ne manda le bollette ai propri utenti per tutta una problematica legata alla gestione informatica dei propri servizi. C'è stata una esternalizzazione del servizio appunto di rilievo dei consumi e fatturazione, ma questo servizio appunto non funziona. L'ho banalizzata in maniera estrema, ma nella sostanza la questione è questa. Comunque da anche un anno molti utenti non stanno ricevendo le bollette, chi le riceve riceve dei salassi insostenibili, per cui voi potete capire come si sta allargando la platea dei consumatori arrabbiati per tutto questo. Ne stiamo parlando questa mattina con 2 associazioni dei consumatori, per la verità ancora ne ho sentita una, adesso sentiremo anche Ilaria Serpi di Federconsumatori, però ci metto subito insieme anche un paio di testimonianze così arrabbiamoci ancora di più ed arricchiamo il nostro dibattito. Francesca da Ostia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Senta, io ho fatto il contratto con Acea a marzo 2011. È arrivata la bolletta relativa al contratto senza nessun consumo e non mi è arrivato null'altro. Mm. Ho fatto una raccomandata di reclamo e non ho avuto risposta. Quindi è 1 anno e mezzo che io non pago la luce. Questo è un problema. Un'altra utenza di luce, ultima lettura effettuata 14 ottobre 2010. E poi tutto a lettura stimata. Lettura stimata nettamente inferiore al consumo effettivo. Ah, quindi in questo caso è avvenuto addirittura il contrario, sì, per cui lei teoricamente ha esatto, consumato di più di quello che le hanno letto, di quello che le hanno conteggiato. Circa 4.000 kilowatt in più ho consumato. Mm. Allora, Francesca... Quindi me trovo... Vabbè, una denuncia che rappresenta pienamente il problema che stiamo segnalando questa mattina. Adesso vedremo le associazioni dei consumatori che strada suggeriscono di percorrere. Ci mette insieme anche Emanuela, un'altra ascoltatrice romana. Emanuela, buongiorno. Intanto credo che ci avesse anche scritto su Facebook ed ero già pronta anche a leggere il suo caso, ma sono contenta che ce lo racconti lei. Grazie, buongiorno. Io invece ho il problema contrario, a me le bollette sono sempre arrivate e eventualmente anche subito i solleciti, tant'è che ho pagato una bolletta doppia e da agosto 2011 ho scritto per avere il rimborso e ho anche telefonato al numero verde e mi hanno detto che gli risultava e che prima o poi questo sarebbe accaduto. Peraltro io poi ho venduto l'appartamento a gennaio di quest'anno. E le continuano magari ancora ad arrivare le bollette? Fino a 3 giorni fa. Ecco. Ed è anche questo un caso che accomuna molti ascoltatori che ci stanno scrivendo e chiedendo appunto di intervenire. Utenze teoricamente chiuse che vengono ancora invece addebitate ai vecchi utenti, ai vecchi titolari del contratto. Emanuela, grazie. Vado subito ad Ilaria Serpi. Tra l'altro una cosa che non abbiamo detto è che magari in questo periodo, dottoressa Serpi, anche i call center dell'azienda o anche quelli che sono allo sportello e che quindi affrontano faccia a faccia i consumatori arrabbiati sono anche loro vittime di questa situazione, perché io credo che non sappiano più che cosa dire, né sanno come gestirla. Veramente non vorrei essere nei panni di qualcuno, insomma, che si trova al sportello a rispondere al call center, perché penso che le persone siano sature in ogni senso. Chiunque viene da noi in associazione e ci dice di essere andato a fare file chilometriche in ASEA o di aver chiamato call center per ore attaccandosi al telefono, quindi insomma la situazione è veramente al limite. E quindi senta, cosa state suggerendo di fare? Perché qua siamo tutti un po' adesso appesi anche alle decisioni dell'azienda per tentare di capire se o cambia gestione informatica dei suoi servizi. Credo che però non sia possibile, perché qua se no, se si ricambia si richiede di nuovo un anno di tempo per magari, che ne so, ripristinare i percorsi vecchi. Non lo so, non ne ho idea. Detto questo, come state seguendo anche i consumatori? Che cosa suggerite loro di fare in questo momento? Pratico, sicuramente li consigliamo e li aiutiamo a immediatamente inoltrare un reclamo all'azienda, perché questo è il primo passo per poi non perdere diciamo strada nei confronti dell'azienda. E ovviamente stiamo interessando molto, cioè noi ogni persona che viene in associazione inviamo anche una segnalazione all'autorità per l'energia, perché comunque informarla dell'accaduto fa sì che poi vengano predisposte delle misure per bloccare queste pratiche che ACEA continua a portare avanti. La cosa che ci lascia interdetti sicuramente è il fatto che un'azienda come ACEA, che ha comunque un numero così ampio di clienti, non preveda nel momento di un cambio di sistemi anche appunto una previsione degli errori e quindi un pensare a mettere dei comunicati che avvertano dell'emissione di bollette sbagliate piuttosto che della mancata emissione delle bollette per un tot di utenze. E noi questo lo stiamo comunicando e stiamo cercando di farlo capire in tutti i modi alla società, che però Se vi rispondono come hanno risposto a me, hanno bisogno di tempo, loro si sono prese qualche altra ora per decidere se c'è un dirigente che ha intenzione di occuparsi di questo problema. Ha citato tra l'altro, dottoressa Serpi, l'autorità per l'energia e il gas, che io ieri ho avuto modo di sentire e mi hanno assicurato che sono assolutamente consapevoli e vigilanti sulla questione, ci stanno lavorando, ci hanno ricordato come ACEA sia pluripremiata per quello che riguarda le multe prese appunto dall'autorità per le sanzioni. Ma un po' come capita per le telecomunicazioni, probabilmente anche voi delle associazioni dei consumatori lo sapete, qualche volta non sono dei deterrenti sufficienti, perché per loro è più conveniente pagare magari una bella sanzione da 100.000 euro al mese, ma magari strapparsi con violenza i clienti da una società all'altra, perché per loro comunque quello è vero? Accade continuamente, ma più che altro quello che noi contestiamo è che una sanzione dell'autorità per l'energia piuttosto che in generale di un'autorità non risolva poi il problema nello specifico, cioè il consumatore non ha nessun giovamento e a volte non ha neanche la risoluzione del problema, per cui è ovvio che va trovato un modo per risolvere definitivamente insomma la questione. Cioè dovrebbe impegnarci secondo noi un pochino di più. Infatti parecchio di più. Tra l'altro, a proposito anche delle iniziative individuali che i consumatori prendono, dei percorsi che normalmente si devono fare qualora qualcosa non funzioni, perché poi tutto sommato ci sta, no? Quando gli utenti di un servizio, di un'azienda sono tanti, io posso anche capire che qualche volta qualcosa non funzioni, è anche giusto che i consumatori si lamentino, lo fanno attraverso i percorsi istituzionali, ma anche quelli proprio non funzionano. Io tra l'altro stamattina voglio dire anche un'altra cosa, poi faccio intervenire Flavia e Gina da Forlì, che ci vuole portare in un'altra area del paese, è che abbiamo veramente dato una grande battaglia alle banche in questi anni. Io credo che in quel terreno, anche se c'è ancora molta strada da fare, ma qualcosa sia cambiato, è un po' più facile adesso magari negoziare con il direttore di banca se si alza la voce. Con queste altre aziende è invece un calvario se si inizia, sì, esatto, non si riesce veramente a parlare e quindi dovremmo evidentemente intensificare le nostre battaglie su terreni diversi. Oltre alle municipalizzate ci metto anche le telecomunicazioni, perché se poi andiamo ad aprire anche con la parentesi qua non la chiudiamo più. Flavia da Roma. Serpi, è vero. Flavia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo portare la mia, diciamo, quello che è successo a me con l'Acea Energia. Allora, io ho avuto un contratto con l'Acea Energia da maggio 2010. Mi sono cominciate ad arrivare le fatture, fatture di 300 euro, 500, 924. Certo. Alla fine sono andata giù agli uffici per capire questa cosa. Premetto che letture di passaggio da Acea Mercato Tutelato ad Acea Mercato Libero, letture di passaggio sbagliate e poi fatture sempre stimate. Quando sono andata agli uffici Acea, loro mi hanno detto, io ho portato la lettura del mio contatore, loro hanno detto che non la prendevano in considerazione perché la lettura gliela doveva dare il distributore. Per cui io ho bloccato le fatture, mi sono scaricata il regolamento dei reclami, ho fatto tutto il reclamo e quindi ho chiesto la camera di conciliazione. Ottimo, sì. Questa cosa non avveniva mai. Pur recandomi negli uffici Acea, ho dovuto chiamare i carabinieri perché altrimenti i ragazzi che sono agli sportelli non sanno assolutamente nulla e i funzionari non ti rispondono. Quindi con l'assistenza dei carabinieri sono riuscita a parlare con un funzionario. Questo signore non so che cosa ha fatto, morale della favola, dopo un anno circa mi arriva una lettera dalla Federconsumatori dicendomi che Acea gli aveva dato il mio reclamo per fare la conciliazione. Certo, dopo che l'aveva già iniziata lei e le è ritornata esatto. Indietro al mittente con il suggerimento di fare la stessa cosa già fatta. Ci sono stati degli incontri di conciliazione, ma non si è avvalso niente. Anzi, io ho delle email che si sono scambiati la CEA con il conciliatore, dove dicono: noi riconosciamo che la cliente ha ragione, ma non abbiamo gli strumenti, i sistemi che ci permettono di ricalcolare tutto il periodo. Per cui dovremmo farlo a mano, è una cosa assurda, cioè nel 2000 noi diciamo che loro non hanno queste cose. Guardi Flavia, è una vicenda questa che ha veramente dell'incredibile. Comunque io ho scritto anche all'autorità dell'energia. Che ha un bel dossier, glielo assicuro. Esatto, l'autorità ha scritto anche a loro. Morale della favola, adesso io mi sono trovata che la CEA per ben 3 volte ha mandato delle fatture di ricalcolo sempre sbagliate, alla fine ne ha mandata una perché io avevo bloccato i pagamenti per circa 1500 euro, giustamente. Ha mandato adesso un'ultima fattura di ricalcolo e forse sarà questo servizio esterno di cui voi avete parlato. Sì. Che sono riusciti a ricalcolare l'intero periodo che è un anno. Quanto le dovrebbero tornare indietro, Flavia? Allora, indietro diciamo non mi devono tornare nulla perché io ho fatto i calcoli che quello che gli ho bloccato e quello che avevo pagato era un consumo medio di una famiglia. Tant'è vero che con le fatture di note credito che sono arrivate, ricalcolate, io dovrei avere 100 euro da loro. Quindi teoricamente quantomeno sta a posto è quantomeno a pari. Sta a posto, ma per fare questa cosa io ho insistito molto. Allora io dico, quando io vado alla CEA Roma, agli uffici della CEA Roma, e vedo dei poveri pensionati, sì, che non hanno la possibilità di pagare perché hanno le pensioni basse e non riescono a venire ad una soluzione di queste fatture alte che arrivano, ma è possibile che nessuno prende l'iniziativa, del blocco di questa situazione? Flavia, lei è tutti noi. Io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza e soprattutto per questo messaggio finale che io mi auguro arrivi a Roma a questa azienda. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Luigi, Gabriele, che cos'altro devo aggiungere a tutto quello che ci hanno denunciato i nostri ascoltatori? La storia della signora Flavia rappresenta tutto quello che è attualmente, tutte quelle che sono le principali criticità. Contratti non richiesti, mancata fatturazione, errata o calcolo delle letture, quindi questo in sintesi è quello che denunciamo da mesi, è quello che rappresenta concretamente la situazione attuale. Io vorrei dare un consiglio ai consumatori, perché in alcuni casi la storia della signora Flavia è emblematica, però poteva essere rischiosa se non si fosse conclusa in questo modo. Perché no, perché tra l'altro se lei avesse continuato magari a non pagare, era anche possibile che si trovasse alla porta qualche recuperatore del credito che contestava anche questo... No. Più che altro poteva essere oggetto di riduzione prima e poi di ah sì certo, quindi stacchiamo prima la luce, l'erogazione della luce e del gas e poi mandiamo il recupero crediti. Il consiglio principale che potrei dare ai consumatori, non solo a chi si trova nella condizione estrema della signora Flavia, ma un po' a tutti, alla signora di Ostia e alla signora Emanuela, è quello di rivolgersi direttamente allo sportello del consumatore dell'autorità all'800 166 654, perché l'autorità per l'energia elettrica attraverso lo sportello del consumatore, visto che in questo momento anche noi associazioni non abbiamo un protocollo di conciliazione che funzioni e lo ha certificato la signora, infatti noi abbiamo sospeso la procedura nei confronti dell'azienda, è quello di fare in modo che soltanto un ufficio terzo come quello dell'autorità per l'energia attraverso lo sportello possa fare in modo che, acquisendo la documentazione necessaria in questo caso, di ricostruire le posizioni dei singoli consumatori e obbligare l'azienda ad adempiere a quanto il consumatore richiede, perché il rischio di fare da soli, perdere tempo, non sapere la procedura esatta, sì, i casi estremi delle signore anziane o delle persone più indifese, potrebbe portare l'azienda ad avere una posizione di forza, perché in caso di morosità purtroppo le aziende hanno il coltello da parte del manico, che è quello della sospensione del flusso, e una volta che il flusso energetico è stato sospeso poi si creano ulteriori problemi per la riattivazione e quant'altro. Tra l'altro c'è anche tutta la famosa questione, che ancora è in sospeso ma ne torneremo a parlare, della possibilità che venga istituita a questa famosa lista dei morosi nei confronti delle società di erogazione. Abbiamo fatto la settimana scorsa un comunicato congiunto con tutte le altre associazioni di colleghi, nel quale ci opponiamo fortemente, perché in un contesto in cui le regole del gioco non sono chiare e soprattutto sono poco chiare nei confronti dei consumatori, e dove soprattutto la tutela del consumatore nel caso del comparto energetico è completamente squilibrata, perché le aziende, grazie alla loro forza soprattutto di natura economica, continuano comunque a disattendere quelli che sono anche i semplici diritti del consumatore, come la risposta entro 40 giorni a un reclamo oppure il dover dare un indennizzo automatico. È inammissibile che in questo momento l'autorità per l'energia si concentri a dare un sistema alle aziende che è quello nel libero mercato di poter addirittura scegliere o non scegliere se fornire o meno a un consumatore che casomai è stato oggetto di una pratica comunque scorretta. Non è ancora attivo questo sistema. Vorrei sentire. Battaglieremo molto. lo so. Gina da Forlì, mi scusi, l'ho fatta aspettare, mi sono voluta concentrare sulla questione romana all'inizio, perché è l'ora del... però vedo che anche a Forlì insomma capitano più o meno le stesse cose. Ho a che fare con ERA, sì, municipalizzata di Modena, tutte le cose che ho sentito, le mie sono minimali, diciamo, però insomma vedo una bolletta da 500 euro per consumi stimati, 498 euro di acqua ad esempio, e anche di gas delle volte 200-300 in più, e poi sbagliare, hanno proprio sbagliato a prendere il consumo, delle volte è stimato, e comunque sono molte volte e si finanziano con i nostri soldi, perché oltretutto l'accredito, perché io mi prendono i soldi direttamente col bonifico bancario dal conto corrente, c'è cioè la RID automatica, sì, infatti, e quando però fanno l'accredito non lo fanno con la stessa valuta con cui hanno fatto l'addebito. Mi spiego? Quindi lei generalmente, magari se le capita, Gina, chiede che le venga ristornato l'importo, magari non va a zero con le bollette successive. No. Ti mandano l'accredito e te lo mandano con la differenza di un mese, quando insomma va bene, delle volte anche un po' di più, delle volte un po' di meno. Quindi l'accredito dovrebbe essere nella stessa, anzi, magari si trattengono qualcosa che è scaduto nel frattempo, vabbè. Mettiamo l'igiene ambientale, perché io ho l'acqua, certo. Comunque Gina, com'è finita la questione? Lei questa l'ha pagata, no, ma l'ha contestata? Io ho finito che avevo fatto una lettera che glielo stavo mandando adesso, perché fra l'altro diciamo, ma lei lo deve dire subito, quando io delle volte anche d'estate uno è fuori, non è che le riceva subito le bollette, che veda subito la propria posta, come dire. E poi a parte quello, quando loro se ne sono accorti, almeno, io dico almeno, fate l'accredito nella stessa valuta della debito. Gina, grazie, grazie per la sua testimonianza. Rapidamente vado a Fabio da Lecce e poi chiudo, così un'altra esperienza con un'altra azienda che però non ha mai sottoscritto nessun contratto con Fabio, almeno secondo quello che lui racconta, ma le arrivano delle bollette, Fabio, strane? Sì, salve, buongiorno. Rapido perché siamo in chiusura, io, sì. Praticamente ero cliente nell'energia libera. Fui contattato da Sorgenia e stipulai il contratto a maggio con Sorgenia. Ah, ecco, quindi ha fatto il passaggio, sì. Sì, però poi il giorno dopo sono stato contattato da Edison. Mi è stata fatta un'offerta molto più vantaggiosa. Ho spiegato che io avevo già fatto il contratto con Sorgenia e mi hanno detto che non ci sono problemi. Si svettavano tutto loro. L'indomani contattai Sorgenia per sicurezza. Chiesi se c'erano problemi, se ci fossero problemi, mi ha detto no, non c'è nessun problema, va bene così. E infatti io a settembre ho ricevuto la fattura di Edison tranquillamente con i consumi di luglio ed agosto. Rapidamente ne ha ricevuto anche un'altra dalla precedente compagnia. Ecco, tre giorni fa mi è arrivata la fattura di Sorgenia, che io ad agosto sono passato con Sorgenia. Ecco, e invece avevano detto abbiamo capito tutto, abbiamo capito che lei con noi non ci vuole stare, invece ne ha scelto un altro. Fabio, devo salutarla. Sì. Il cognome di mia moglie, cioè l'intestatario della fattura, è sbagliato. Il codice fiscale è sbagliato. Guardi, io so già che sarò chiamata dall'ufficio stampa di queste aziende, per cui le proporrò il suo nome, vedremo se riusciranno a risalire ai nomi corretti. Non riesco a far intervenire Ilaria Serpi e Luigi Gabriele, ma è un tema che ci è piaciuto talmente tanto che ho la certezza che ci risentiremo di nuovo molto presto, così come invito Acea a velocizzare la risoluzione di questa bruttissima situazione su Roma. Grazie a tutti, a domani.